Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note, che penso tutti abbiate riconosciuto e che non hanno bisogno di presentazioni, iniziamo l'incontro di oggi. Buon pomeriggio e buona domenica a Benito Benedini. Buon pomeriggio a lei, dottor Fabi, grazie. Grazie mille, Cavaliere Benedini, perché Benito Benedini è presidente del Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, oltre ad altri incarichi che vedremo poi nel nostro incontro. Cavaliere del Lavoro dal 94, presidente nazionale dei Cavalieri del Lavoro dal 2007, mi pare. È stato presidente di Assolombarda e ha un'attività imprenditoriale. Magari se ci riassume in breve l'attività imprenditoriale e poi parliamo di Va Pensiero. Certamente, diciamo che il mio, volendolo definire, è un po' il romanzo di un giovane povero. Infatti ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti molto giovane e di lì iniziare, a parte gli studi, a parte il master, a parte il PhD, di iniziare un'attività prima manageriale e dopo imprenditoriale. Quindi entro nel settore della chimica, nella chimica, grande chimica, la Union Carbide, dopodiché passo alla chimica fine, che è la chimica delle vernici, la chimica degli inchiostri da stampa, dove in effetti si forma tutta la mia vita. Rientro in Italia, mi sposo, dopodiché inizio un'attività italiana in cui non sono più solo manager, ma sono anche diciamo partner, grazie a quello che allora in Italia era assolutamente totalmente sconosciuto, le stock options. Invece di ritirare dei bonus, si ritiravano delle stock options che poi servivano a diventare azioni. Quindi questo è stato un po' il mio inizio. Quindi io devo dire veramente, senza retorica, grazie America. Grazie America, cioè ha imparato il mestiere in America e ha acquisito un'azienda, quindi è diventato imprenditore acquisendo un'azienda, entrando in questa azienda e poi acquisendola. Esatto, sono entrato in azienda, poi diciamo l'ho acquisita come partner di minoranza naturalmente all'inizio e dopo man mano ho sviluppato gli affari, per cui pensi che allora era un'azienda di 5 miliardi di fatturato di lire e oggi è un'azienda che fa 360 milioni di euro. Si è sviluppata. E come vede le prospettive adesso in questo settore? Guardi, io sono un po' in diversi settori, tra l'altro ho sviluppato anche la parte informatica perché ho tre figli, tutti maschi, lavorano con me nelle varie aziende e diciamo che la parte informatica è quella che oggi subisce un pochino più il riflesso economico, mentre la parte chimica, ma soprattutto l'ultimo nato nella mia azienda che ci sta dando grandi soddisfazioni, l'alimentare, vale a dire noi siamo i numeri uno per la semola negli Stati Uniti, la semola per la pasta, ecco, devo dire che questa attività io non posso lamentarmi. Stanno andando bene e non abbiamo prospettive difficili, forse perché tutti dicono il grano adesso aumenta il prezzo, ma no, in realtà è una commodity, bisogna sapere acquistare bene e vendere. Il settore alimentare, si dice, almeno gli esperti di economia, che è un settore un po' aciclico, che non risente molto delle fasi alte e basse della congiuntura. È vero, diciamo che il settore alimentare, soprattutto per quanto riguarda la pasta, gli americani l'hanno scoperto. Hanno scoperto che la pasta è un pochino il cibo dei tempi cattivi, se vogliamo, a parte che è buonissima e fa bene, ma voglio dire, uno slogan, se lei me lo permette, che cito sempre con gli americani ma anche con gli italiani, è che un chilo di pasta costa, diciamo in euro, costa un euro e qualche centesimo, no? E mangiano come minimo 8 persone. Ecco, lei quando va al bar e beve un caffè, quanto spende? La stessa cosa. E non si va avanti per poco, indubbiamente. Quindi l'America è sempre qualcosa... È un punto di riferimento per la nostra famiglia, per i miei ragazzi, parlano tutti perfettamente l'inglese, o l'americano, che dir si voglia, e io credo che, al di là del fatto che continuo a investire in Italia... Certo, quindi una grande fiducia sull'Italia. Non è che ho abbandonato l'Italia, tutt'altro. Una fiducia sull'Italia che è stata, diciamo, evidente anche nel suo impegno associativo. Lei è stato presidente di Federchimica, presidente di Assolombarda. Cosa ricorda di quegli anni? Ma guardi, anni di Federchimica, ricordo l'inizio, che fu un inizio traumatico, perché io iniziai nel giugno del 93 e lei sa cosa successe dopo a Cagliari e a Gardini nel luglio 93, quindi giovane presidente di Federchimica fu sbalzato subito nelle cronache. Piena Tangentopoli e con i riflessi, riflessi che c'erano e quant'altro, quindi è stato sicuramente però un momento molto esaltante, perché ho potuto far vedere quello che oggi viene chiamata la chimica fine, la seconda faccia della chimica, no? La chimica primaria ormai non c'è più in Italia, però c'è la chimica fine che effettivamente sta andando molto bene, con grandi risultati anche di esportazione e di internazionalizzazione. Da lì poi Asso Lombarda, io ero il chimico, ero guardato un po' male, perché di solito i presidenti di Asso Lombarda venivano dal settore metalmeccanico, e no, invece credo di aver lasciato un buon ricordo per tutte le cose che sono state fatte. Eravamo arrivati a essere il crocevia internazionale dell'Italia per quanto riguarda l'economia. Beh, indubbiamente Milano è ancora adesso un crocevia internazionale, ma io vorrei stare sulla chimica un attimo, proprio perché si dice spesso che l'Italia ha perso la grande occasione della chimica. In parte questo è vero per i grandi complessi, la crisi che lei ha ricordato, Gardini, la stessa Montedison e così via, però c'è ancora una chimica in Italia. Esatto, ed è quello che noi chiamiamo chimica secondaria, o meglio ancora chimica fine. La chimica delle vernici, la chimica degli adesivi, la chimica degli inchiostri da stampa, insomma la chimica in generale, la chimica di trasformazione, anche se una parte è in sintesi, quindi è di fatta con i reattori, però è una chimica veramente che ha bisogno della chimica primaria. Certo. Noi importiamo prodotti della chimica primaria, però li trasformiamo e sappiamo, ne abbiamo esaltato questo settore che oggi come oggi sicuramente è tra i migliori che ci sono in Italia, tra l'altro anche come sviluppo, anche come ricerche e anche come, diciamo, anche come manodopera. E in fondo anche con la sua presenza è iniziata anche una certa capacità della chimica di farsi immagine, di far avere un'immagine positiva, non come un'industria per esempio inquinante, ma un'industria capace di rispettare l'ambiente. Molto vero, mi fa piacere che lei mi abbia ricordato questo, perché io ho sempre detto la chimica è vita. Qualcuno rideva quando io facevo questa affermazione, ma se lei pensa che oggi come oggi non ci sarebbe vita, sa l'automobile quanta chimica dentro? Certo. 50%. Certo. Tutti non lo sanno, ma il 50% è prodotti derivanti dalla chimica. Quindi le case, le finestre, i sigillanti, i pavimenti, le vernici che colorano il mondo. Ecco, si può dire che la chimica, come tante altre cose, offre più soluzioni che problemi. Assolutamente sì, anche perché ormai i problemi, grazie a Dio, ce li siamo lasciati alle spalle. Questo anche a livello oggi sì, indubbiamente a livello di settore industriale l'Italia in questa fase sta un po' soffrendo. Come l'Italia cresce poco, quale può essere una ricetta per la crescita? È vero, l'Italia cresce poco, ma qui la dico come Tremonti: attenzione, il nord centro cresce il 3%. Certo. E purtroppo abbiamo il problema, che io continuo a considerare un'opportunità e non un problema, del sud. E quindi è lì che bisogna investire bene, è nel sud, perché il nord cresce meglio che non gli altri stati d'Europa, il nostro nord centro direi. Quindi questo, il problema dell'Italia rimane sempre quello, il problema dell'Italia è la burocrazia che taglia le gambe alle aziende, non puoi aspettare anni per avere delle decisioni, non puoi aspettare anni per avere un'autorizzazione. Io ho un progetto molto importante nel sud, vicino a Napoli, è dal 2007 che stiamo lottando per tutte le autorizzazioni e tutte le cose. Negli Stati Uniti, ma anche in Europa, non dico 60 giorni, ma sicuramente in un anno ce la si cava, tranquillamente. Certo. Non abbiamo parlato per ora dei Cavalieri del Lavoro, ma è solo per parlarne nella seconda parte. Però una piccola introduzione di questo tema. Cosa vuol dire essere Cavaliere del Lavoro? Cavaliere al merito del lavoro significa aver dedicato una vita al lavoro, se mi permetto una cosa un po' poetica. In realtà significa di aver, diciamo, sviluppato un lavoro in Italia, aver sviluppato quindi delle aziende, sia a livello imprenditoriale, ma oggi ammettiamo anche manager che hanno condotto bene le aziende, che hanno saputo naturalmente queste aziende, farle diventare magari da piccole, farle diventare grandi e via dicendo. Cavalieri del lavoro significa avere 20 anni di autonomia di gestione, se no non si passa, e significa non avere nessun tipo di macchia, di qualsiasi tipo, anche una multa non pagata. Con qualche macchia che c'è stata, però, come in tutte le organizzazioni complesse. Quelle sono venute dopo. Incontri. Con queste note di Va pensiero dal Nabucco di Verdi riprendiamo il nostro incontro con Benito Benedini. Grazie ancora di essere con noi, Cavalier Benedini. Va pensiero, come mai questa melodia, questa, non questa canzone indubbiamente, no, questo brano musicale le ricorda qualcosa? Ma guardi, io sono molto legato all'opera sin da ragazzo. Allora magari non potevo permettermi il palco, ma andavo in loggione. Ma comunque erano anni molto belli anche quello. E devo dire che mi è sempre piaciuto Verdi. E nel Nabucco io ho trovato sempre un momento di commozione. Pensare a quella realtà in quando Verdi ha avuto il coraggio di scrivere il Nabucco. Erano momenti chiaramente di non libertà. Certo. E devo dire che ho ammirato molto Verdi anche sotto questo punto di vista. E poi naturalmente la musica è eccezionale, la musica è vibrante, è un qualcosa che nasce proprio dall'animo, ti rientra nel cuore. Io direi, si dice sempre in gergo, è come aver preso un pugno nello stomaco quando senti questa musica. Viva Verdi, quindi, viva e Verdi. Anche viva l'Italia, in un certo senso, sì, in questo momento, certo, in cui quest'anno, certo, in questi giorni, peraltro anche festeggiamo, abbiamo festeggiato questa unità d'Italia, unità, già lei prima diceva, c'è un nord che cresce, un sud che cresce poco, un'unità forse che bisognerebbe fare di più, soprattutto dal punto di vista economico. Sicuramente, anche se io investitore nel sud, devo dire che anche lì va cambiata un po' la mentalità. Il sud non è quello che deve sempre aspettare, deve sapere anche reagire e sapere essere proattivo, non soltanto aspettare. Ecco, questo lo dico con cognizione di causa, quindi senza paura di essere smentito. Anni fa, durante gli accordi di programma, io portai 30 imprenditori lombardi a Crotone per fare aziende con crotonesi. La meraviglia fu che trovammo solo 3 crotonesi disposti a farle. Ecco, questo un pochino per dire che le cose sono importanti, nel senso che bisogna dare anche sicurezza all'investimento. Certo. Perché vede, uno dei problemi di oggi dell'Italia è che non attrae più capitali. Negli anni 60, se fatto 100 l'investimento americano in Europa, il 40% veniva in Italia, pensi, 40%. Oggi, di quella fetta del 100 che viene in Europa ed è meno del passato, in Italia arriva il 2%. 100. E al sud non arriva nulla, probabilmente. Quindi, siamo poco attrattivi. Non so se sia vero che c'è stato un anno, qualche anno fa, in cui il Presidente della Repubblica sceglie i Cavalieri del Lavoro, e dato che comunque nelle scelte deve essere abbastanza nazionale, cioè non fare tutti i Cavalieri del Nord, però c'è stata qualche difficoltà a trovare dei Cavalieri del Lavoro nel Mezzogiorno. Ci sono però degli imprenditori. Guardi, nel Mezzogiorno ci sono bravissimi imprenditori. Io conosco, ho diversi amici imprenditori che sono non soltanto imprenditori in Italia, ma hanno saputo svilupparsi all'estero, quindi sono gente molto in gamba. Purtroppo abbiamo un substrato, diciamo così, che naturalmente fatto anche, io direi, in qualche modo anche da un po', come posso dire, è un pochino che si esagera, sì, con anche i problemi della sicurezza, certo, e quant'altro, però sicuramente un problema c'è da quel punto lì di vista, e anche se devo riconoscere che il ministro Maroni ha fatto un ottimo lavoro, il ministro degli interni nostro, perché veramente ha fatto un ottimo lavoro su questo campo, però insomma è ancora un problema che noi abbiamo e che quindi deve essere superato. Ecco, in questo senso la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ha proprio come compito quello di promuovere anche lo spirito imprenditoriale, di difendere la logica imprenditoriale all'interno del paese. Certo, noi rappresentiamo il 60% del turnover nazionale e il 30% del PIL, le aziende che riportano i gradi del lavoro. Quindi siamo una forza della natura, siamo l'elite del mondo dell'impresa. Attenzione, perché quando uno pensa ai gradi del lavoro, pensa all'industria. No, noi rappresentiamo l'agricoltura, certo, l'artigianato, il commercio, l'industria e i servizi. Quindi noi siamo veramente rappresentanti dell'impresa nel senso più generale. Però non volete essere una lobby in senso stretto. Non siamo una lobby, anche se chiaramente il difendere gli interessi dell'impresa io lo trovo una cosa sacrosanta. Quindi se questo si chiama lobby, allora d'accordo. Però noi non vogliamo esserlo. Vogliamo semplicemente, e questo l'abbiamo già fatto, di essere noi un punto di dialogo con le istituzioni, ma non con le istituzioni soltanto politiche, con le istituzioni economiche, con la cultura. Abbiamo un collegio universitario che si chiama l'Amaro Puzzani, dove 70 giovani, perché purtroppo non ne possiamo ospitare di più, 70 giovani diciamo entrano dopo la maturità e vanno fino alla laurea. Però è un piccolo campus all'americana, non è un pensionato, perché noi diamo aiuto a questi giovani all'interno con dei professori, con dei corsi propedeutici, corsi di lingue, corsi di informatica e adesso corso di cultura d'impresa. Quindi è diciamo una lobby culturale in un certo senso. Diciamo che facciamo corsi di formazione ai giovani, crediamo che aiutando i giovani si aiuti effettivamente l'Italia. E non soltanto con i 70 laureati nostri che abbiamo, 70 laureando, 70 comunque diciamo studenti che abbiamo, ma anche con gli alfieri del lavoro. Gli alfieri del lavoro, che premia il Presidente della Repubblica insieme ai Cavalieri, rappresentano il top, diciamo l'elite dei bravi studenti in Italia. Quindi sono circa 1.400 studenti che vengono segnalati da tutte le scuole italiane e da questi 1.400 eccellenti ne scegliamo 25 che poi vengono premiati dal Presidente della Repubblica e poi noi seguiamo questi ragazzi, cosa scelgono come università, dove vanno, cosa faranno come lavoro, e noi seguiamo tutto il percorso e lo metteremo online. Quindi è una ricerca delle eccellenze e una valorizzazione di queste eccellenze. È una valorizzazione di queste eccellenze. All'interno di... Poi posso dire stage presso le aziende dei Cavalieri del Lavoro insieme alla CRUI, la conferenza direttori università italiane, questo è un altro fiore all'occhiello, e soprattutto l'ultima cosa, gli spin-off universitari, vale a dire con 10 università italiane eccellenti tiriamo fuori dai cassetti quanto è rimasto brevetti o comunque diciamo possibilità di azienda, e con loro, con l'università e con le imprese che del lavoro facciamo degli start-up aziendali con i giovani. Con i giovani, quindi aiutando questi giovani a diventare imprenditori in poche pratica. Parole, noi siamo per il fare, non per il dire. Non per il dire. Ecco, tra il fare c'è anche il fatto che lei è presidente del centro di cardiologia De Gasperi, l'ospedale Niguarda di Milano, che è un centro di eccellenza in Italia per appunto la cardiologia, la cardiochirurgia. La ringrazio di questo perché mi dà modo di far conoscere, perché il De Gasperis è conosciuto, De Gasperis lei sa è stato il primo cardiochirurgo in Italia a operare sul cuore con trapianti e quant'altro 52 anni fa ormai, quindi un centro di eccellenza sicuramente. E la fondazione cosa fa? La fondazione aiuta il dipartimento De Gasperis al Niguarda, all'ospedale Niguarda Calgranda, famoso sì, ospedale di il Milano, maggiore ospedale di Milano, per chi ci segue da Palermo, quindi bisogna dire questo dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia è è veramente a livello mondiale, oggi abbiamo installato anche macchinari modernissimi grazie anche alla fondazione, manteniamo un certo numero di medici con le nostre borse di studio. Senza queste borse di studio il dipartimento forse non potrebbe andare avanti. Perché? Perché mancano i fondi. Mancano i fondi, soprattutto per la ricerca su questo fronte, perché è una ricerca sempre più avanzata. Ho letto che sono state fatte delle operazioni che sono minimamente invasive, dove invece una volta si operava a cuore lei aperto. Lei sta parlando della risonanza magnetica cardiovascolare, questa macchina che veramente è stata un momento eccezionale per la fondazione, perché ha un costo veramente molto alto, però siamo riusciti insieme all'ospedale a dare questa donazione, E effettivamente oggi più di 2000 diagnosi sul cuore vengono fatti senza metodo invasivo. Quindi siamo veramente, De Gasperis è all'avanguardia ancora una volta con i suoi professori, con le sue, diciamo, con la sua organizzazione, sia prima dell'operazione, sia dopo l'operazione, anche sia a livello di diagnosi, sia a livello dopo di diciamo post-operativo. Quindi, e soprattutto anche la fondazione dà un occhio anche ai pazienti, ma anche ai parenti dei pazienti. Certo, e anche una finalità di prevenzione, di far conoscere i rischi, perché prevenire è sempre meglio di curare. Infatti la gente non sa che oggi è più alto il numero di infarti al miocardio che non di tumori. Però ecco, vorrei dare una nota positiva a questa cosa qua. Con una nota positiva, però è anche importante conoscere questi problemi, sapere che comunque anche i problemi possono essere affrontati, anche un infarto può essere comunque, se affrontato bene, non costituire un impedimento. Allora stiamo avviandoci alla conclusione, abbiamo pochi secondi ancora. Certo. Un messaggio che mi pare che sia un messaggio di fiducia, quello che nasce da tutta la sua esperienza, la possibilità di fare. Quale messaggio vogliamo lasciare nell'insieme? Imprenditore, cavaliere del lavoro, ma presidente di una fondazione importante. Il messaggio è credere in quest'Italia, credere in quest'Italia unita. Che venga fatto il federalismo credo che sia una cosa necessaria, ma federalismo attraverso l'unità. Un federalismo che unisce. Che unisce, assolutamente. Quindi io ritengo che questa sia la cosa principale, e dare fiducia a questo paese dove comunque sia, nonostante i nostri problemi, noi imprenditori e maestranze, perché guarda che noi abbiamo le migliori maestranze che ci sono in Europa, le migliori maestranze, noi credo che possiamo ancora risollevare questo nostro paese. Con questo messaggio di fiducia io ringrazio Benito Benedini di essere stato con noi questo pomeriggio. Ancora buona domenica a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.